Venerdì 7 settembre 2007, sono le 7 del mattino, qualche secondo, 16, 17, 18. Sono l'Ariele, buona giornata agli amici e alle amiche incollati alla frequenza di Rock FM. Anche quest'oggi, grazie alla nostra trasmissione, vedremo di far sorgere nuovamente il sole, sempre se lui lo vorrà. Lui, intendo Roberto Fricantoni, anche quest'oggi con noi. Un applauso anche al buon Spadino dall'altra parte del vetro, il nostro regista fondamentale. Via di sigla, sa da cominciare. Burro e rock and roll. Mi è venuta male, sa da cominciare. La tua colazione rock. Gia fai o gna fai? Pane, burro e rock and roll. Qui in diretta fino alle 9. Tracu, tracu. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Tracu, tracu, eccoci qui, tracu. Eccoci qui pronti per l'ennesima diretta, puntata 05 della ripresa, oppure puntata 83. No, non la smetto con questo gioco, Spadino, perché ci tengo a contarle tutte dall'inizio, no? E anche a contarle dalla ripresa, che mi sembrava doveroso. È la prima settimana, andiamo a chiudere la prima settimana di diretta nella ripresa di Pane, Burro e Rock and Roll, nella quale così senza grosso avviso siamo tornati sulle frequenze di Rock FM. In molti si sono anche lamentati, ma come vi permettete di riprendere il programma senza doverosa comunicazione? Ragazzi, siamo a Rock FM, eh? Qui le cose si fanno così, in amicizia. E poi, per spargere la voce, qua siete solo voi che potete farlo. Non abbiamo cartellonistica, pubblicità sui giornali, piccioni viaggiatori. No, no, qui sono i radioascoltatori e le radioascoltatrici che devono chiamare. Pronto? Oh, sai, ma ha ripreso Pane, Burro e Rock and Roll, incredibile, no? Dobbiamo riniziare con... Va bene, terremo duro fino alle 9 e ad aiutarci ci sarà la grande musica di Rock FM. Si parte al volo con i Triumph per un augurio di un trionfale venerdì. Via. Music holds the secret to know it can make you whole. It's not just a game of notes, it's the sounds inside your soul. Magic of a melody runs through you like a stream. The notes that play flow through your head like a dream. Like a dream. Like a dream. I sing this song for the common man and for the people. Listen to your heart. Oh, oh, oh, oh, to your dreams. tracu tracu, tracu tracu. Appunto, Hold On, inizio direi adeguatamente trionfale per l'ultima puntata della settimana di Pane, Burro e Rock and Roll. Eh sì, è ufficiale, abbiamo ripreso anche noi a lavorare, sì, diciamo a svegliarci presto quantomeno, e se anche voi avete ripreso il duro lavoro nella metropoli o nel vostro paesello, insomma, avete ripreso il duro lavoro, siamo in buona compagnia, anzi siete in buona compagnia. Questa è la colazione che serviamo. Doveroso saluto a chi ci ha preceduto, al buon Chuck Bird, che intravedo abbandonare gli studi in questo momento, ogni giorno con il suo Hurley Bird Special, la primissima colazione di Rock FM dalle 6 alle 7. Invece, per fare le vostre ordinazioni nella colazione che si chiama Pane, Burro e Rock and Roll, avrete volendo a vostra disposizione un numero di SMS, 335 100 77 77. Quello è il metodo decisamente più veloce per entrare in contatto con noi, altrimenti potete scriverci una cartolina a Via Locatelli 1 20 124 Milano. Eh sì, ve l'avevamo chiesto prima dell'estate, ne sono arrivate talmente tante che adesso l'obiettivo è quello di ricoprire Fricantoni interamente di cartoline, ma non messe per verticale, messe per orizzontale, capito? Quindi è dura la cosa. Tra l'altro segnalo che anche il nostro regista Spadino appoggia pienamente il continuo richiedere di cartoline, perché in molti avete salutato anche il buon Spadino, che non avete mai sentito, ma che già è diventato un vostro amico grazie al quotidiano appuntamento con Pane, Burro e Rock and Roll. Ricorderò anche una casella di posta elettronica. So che gli amici che mi ascoltano in diretta non sempre hanno un computer già acceso a quest'ora della giornata, ma so che sta prendendo piede anche il buon vizio di ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll dal sito www.radiorockfm.com, nella sezione programmi in archivio. Al termine delle puntate in diretta già potete risentirci, e in molti probabilmente, che ne so, adesso ci stanno ascoltando alle 3 del pomeriggio, capito? O a mezzanotte. Voi, se avete già la casella di posta elettronica aperta, scriveteci ad ariel@radiorockfm.com. Per celebrare un 7 di settembre come si deve, io andrei di almanacco, sempre se il buon Freak sarà d'accordo. Chi lo sa? We'll be right back. Giorno della settimana, della prima settimana di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Può c'entrare? Ultimo giorno della settimana, prima settimana di diretta. Era un gioco. Interessante, molto interessante, bello, frizzante, stimolante. Come molto interessante sarebbe scoprire anche in questo venerdì 7 di settembre se è accaduto qualcosa così nella storia. Ma certo, certo, come al solito il nostro almanacco storico ci riferisce che nel 1860, il 7 settembre, Giuseppe Garibaldi, dico Peppino Garibaldi, lui, l'unico, l'eroe dei due mondi, entrò a Napoli con l'esercito dei mille. Contandoli tutti. Ragazzi, ci siete? Sì, lui ci teneva molto, tra l'altro. Siete tutti qua? Uno, due, tre, contava continuamente. Per questo oggi si dice mille, perché è attendibile la misura. Passiamo invece a un compleanno tutto genovese, così salutiamo anche gli amici liguri. Nasceva il 1893 il Genoa Cricket, e questo è un po' strano, lo vedremo, and Football Club. Mi sta dicendo la prima squadra di calcio italiana. Sì, sì, oh. Che fu fondata con il contributo degli inglesi, ed ecco spiegato perché è squadra cricket. Di cricket. Esatto. Ma mi faccia, la prego. La prego? Ma la prego, dica. DJ Ariel. Faccia. Mi faccia proseguire. Ma deve. Con una notizia la veramente paghiamo. Insolita. Ovvero? Nel 1911, il 7 settembre, il poeta francese Guillaume Apollinaire, ha notato come la pronuncia, lei. Guillaume Apollinaire, venne arrestato e imprigionato perché sospettato di aver rubato la Monna Lisa dal museo del Louvre. Guillaume Apollinaire, uno dei più grandi poeti francesi del XX secolo. A spasso con la Monna Lisa sotto il braccio. Tra il XIX e il XX secolo, che va a rubare al Louvre la Gioconda di Leonardo. Ma le sembra possibile? Non... Forse è scritto, sì. Forse è scritto. Sì, forse l'ha fatto. Viva Guillaume! L'ho detto bene, Guillaume. Guillaume, ma va bene. Guillaume. Around the world.

questa nuova possibilità di ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll da due radio, quindi sentire due programmi diversi contemporaneamente. Fateci sapere se la cosa vi aggrada oppure no. In teoria non si capisce niente, ma anche in un programma solo di Pane, Burro e Rock and Roll non si capisce un granché. Cosa state combinando di bello? Io intravedo dal mio oblò che getta il mio sguardo su via Vittor Pisani, ufficialmente ho scoperto il nome della via e dovrei anche ricordarmelo, intravedo un signore che scende il cane e ne approfitto per salutare tutti gli amici e le amiche che magari in cuffia ci stanno ascoltando proprio scendendo il cane per fargli fare quello che deve fare, come l'omino che intravedo io di fronte a me. Il viaggio sarà fino alle 9 del mattino, ma l'astronave di Pane, Burro e Rock and Roll è abituata. Voi invece a viaggiare nello spazio come state messi? Vi viene ancora un po' di mal di spazio? Cioè, proviamo subito. Astronomy Domine. Che roba, ragazzi. Mio Dio. Qua fuori è pieno di stelle. Limpid green, a second scene, a fight between the blue you once knew. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on their end of Antitania. Neptune, Titan. Stars can frighten. Che dà assuefazione, oltre alla colazione che vi permette di viaggiare nello spazio già a quest'ora della giornata. Guidare l'astronave erano ovviamente i Pink Floyd con quel capolavoro denominato Astronomy Domine. Se siete, insomma, se siete appassionati di buona musica, queste sono i momenti forti di pane, burro e rock and roll. Andiamo a concludere questa settimana, che è stata ricca per il nostro collega Mr. Trombetta, che mi serve anche per svegliarvi bene. A quest'ora è stata ricca di richieste, molti studenti che iniziano la carriera universitaria hanno chiesto al 335-100-7777 strombazzamenti pro esame di ammissione all'università. Mister Trombetta giustamente chiede: appena sapete com'è andata, confermate la funzionalità o meno del nostro buon Mister Trombetta. Lui ci tiene particolarmente, mica che non funziona più, dobbiamo mandarlo in pensione. Pane, burro e rock and roll ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal tartaro. Pane, burro e rock and roll, la forza delle gengive, la vita dei denti.